Good morning, Radio Kabul! Salut! Nieruchimi Respublik Svobodny, Splatiland na veki, Velika Jaros! Milan, Bolcevico! Zostani vole naroda! Milan, non ho capito se ti chiami Alino o Alenin! Sovietski Sajus! Comunista bolscevico Milan Setung Setung Setung Radio Kabul Družbi naroda Vladiosti Stalin Lenin Milan. Vai con l'armata rossa. Piegati al sistema che non siete altro. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Cari ascoltatori, buongiorno e ditelo che lo fate apposta. Lo fate apposta, Carmelo Lauricella in regia, con Danilo Di Trani, con la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Mine Lucchetti, Elisabetta Fusconi. Lo fanno apposta. Tutte le volte che c'è Mario Calabresi, voi mettete l'inno sovietico, perché così fate in modo che Mario Calabresi possa prendermi in giro. Questo lo fate apposta. Allora, Mario, buongiorno. Ti giuro, buongiorno, non iniziamo buongiorno. Sempre così. Non iniziamo lo sempre so, così, lo fanno apposta. Non è che vi ascolto solo quando ci sono io. Vabbè, da bolscevico a bolscevico puoi capire comunque di che, cosa, di che cosa si tratta. Allora, torna con noi Mario Calabresi per questa ultima puntata della settimana. Vi dico già che lunedì a Pasquetta ci prenderemo una pausa, quindi ci sentiremo in diretta martedì, ma lunedì avremo un meglio di. Tipico dei bolscevichi, sempre in vacanza. Ecco. Ma guarda, lascia stare che ho un arretrato da smaltire adesso, prima o poi dovrò farlo. Mario, ci eravamo lasciati di recente con il mitico nostro amico, neo amico Raffaele Koller, musicista, trombettista milanese, attenzione, non che torna che con noi per Pasqua. Elementari di mia madre. Oh, esatto, soprattutto ecco. Raffaele, buongiorno. Buongiorno a tutti, piacere sentirvi. Come va? Le trombe a Milano, la tromba a Milano risuona ancora anche in questi giorni? Alle 18 in punto, sempre, tutti i giorni, non c'è domenica che tenga, dal lunedì alla domenica, no. Tutti i giorni alle 18. Anche a Pasqua e anche a Pasquetta. Ecco. Anche a Pasqua, anche a Pasquetta, sì, è una maniera tenersi, insomma, vicino. Anche durante le feste, ecco. E allora, Raffaele, noi vogliamo, insomma, in questo modo, con la tua tromba, augurare anche buona Pasqua a tutti gli ascoltatori. Che cosa ci proponi? Cosa ci regali? Allora, questa è una canzone messicana, dove appunto questa quizás, quando finirà tutto questo. Chissà. Ma il primo che l'ha fatta è stato Nat King Cole, oppure era precedente? No? Perché c'è un'interpretazione, poi l'ha fatta anche Bocelli, altri. Diciamo che è un brano popolare che poi l'hanno reso ancora più celebre tantissimi grandi artisti, come appunto Nat King Cole e tanti altri. Ecco, diciamo. E allora vai, Raffaele, è tutto tuo. Eccolo lì, ma insomma, Chissà, è proprio emblematico, e chissà quando finirà. Raffaele, noi ti ringraziamo, ti auguriamo ovviamente buona Pasqua. Grazie a voi, augurissimi. E ci siamo quando vuoi, siamo sempre qui ad ascoltare i tuoi messaggi di bellezza, ecco, diciamo così, di bellezza. Grazie Raffaele. Mario, insomma, chissà dove partiamo da qui. È effettivamente molto emblematica come canzone di apertura. Vai Carmelo con il nostro Conte che partiamo. Enthusiasm about the future. Sai Mario che poco fa su Facebook ho scritto le librerie, perché avevo detto non vedo l'ora di poter andare in libreria. Sono stato ovviamente subissato da critiche. Per lo sfizio di alcuni si mette a repentaglio con l'apertura delle librerie. Ma dai, sfizio, insomma, vogliamo trattare la cultura. Io ho una posizione un po' diversa dalla tua. Questa mattina dici... rompo il fronte bolscevico. Oh, evviva! Allora, sulle librerie bisogna stare attenti. Io ho parlato con tanti librai in questo periodo e molti sono preoccupati da un fatto. Se domani mattina permettessero di dire va bene, le librerie le equipariamo, diciamo così, agli alimentari e le riaprissero. I librai avrebbero, oggi i librai sono chiusi, hanno anche le piccole librerie, hanno la cassa integrazione, cercano di avere la dilazione o sui mutui, oppure fanno che sai che l'affitto andrà in credito d'imposta, eccetera eccetera, però diciamo sì. Cercano di tenere tutto fermo per quanto possibile, pur perdendoci un sacco di soldi. Nel momento in cui riaprono, questo me l'ha spiegato perfettamente una libraia di Lucca, mi dice, nel momento in cui io ritiro sulla serranda, il contatore di tutte le mie spese riparte, i dipendenti, le spese, devo pagare l'affitto, devo pagare tutto. Ma quanta gente oggi verrà in libreria? Quanti pensi che andranno in libreria? Il facendo la coda come in farmacia? Facendo la coda come il supermercato? Pensiero, lei dice, se a me vengono tre persone dentro, io dopo un mese sono fallita per sempre. Chiudo. Perché ma avrò tutti il mio i costi malvagio... ma non avrò i guadagni. È stato questo, forse aprono le librerie perché lì assembramenti non se ne sono mai visti, anche di recente, dire. No, però dico, nella cosa romantica che fanno molte persone, te compreso, molti scrittori, eccetera, eccetera, c'è anche da pensare che la libreria, cioè il libraio deve stare in piedi, la libreria non è un ONG, non è una cosa di volontariato, è un'attività economica, è un'impresa. E quindi deve avere le condizioni perché ci siano, cioè, finché i cittadini non potremo uscire normalmente, riaprire le librerie non è pensabile, te la dico da padre di due figlie, è molto più urgente riaprire le cartolerie, non ci sono più pennarelli, non ci sono più fogli, vai al supermercato non te li lasciano comprare. Ma anche quelle verranno riaperte, almeno se ho capito bene, librerie e cartolerie. Sì, il discorso che fai è perfettamente ragionevole. Ieri ho incrociato, qua abita il mio palazzo, mio amico Geliene, Jessica Cinesi, lui ha un ristorante a Milano, e gli ho detto, ma scusa Geliene, perché non fai il cibo a casa, no? Come fanno molti. E lui mi ha detto questo ragionamento, mi ha detto, ma se io apro, se non fatturo 900-1000 euro al giorno, non mi conviene. Mi conviene di più attivare cassa integrazione, i dipendenti, poi i cuochi non vogliono cucinare perché per una questione di sicurezza non vanno, e quindi riaprire per poi avere tre clienti non gli conviene perché ci sono tutte quelle spese da gestire. Bene, non avevo riflettuto su questo. Vedi che anche i bolscevichi sono disponibili ogni tanto a ragionare, poi decidono col maglio decidono. Comunque, allora Mario, io prima che tu ci dici dei dati interessanti che pubblichi oggi sulla tua news, io volevo rilanciare l'appello che l'Università di Bologna ha fatto per Patrick Zaki, ricercatore in Egitto. Noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana con il prorettore. Che cosa si può fare? Mandare una mail. Voi dite che cosa serve? Una mail di solidarietà all'indirizzo for Patrick, for in inglese, cioè per Patrick, Patrick è scritto con la CK, for Patrick chiocciola unibo.it, Università di Bologna, forpatrick@unibo.it. Ne abbiamo parlato, sono già arrivate 1500 mail, scrive anche oggi Repubblica. Mandate un messaggio di solidarietà. Cosa serve? Niente. a qualcosa? Boh, forse anche per non dimenticare serve, ecco, non lo so Mario, tu cosa ne pensi? Che forse andrebbe anche mandato a For Di Maio, perché per ricordare al ministro degli esteri che è il ministro degli esteri e che forse dovrebbe far sentire la sua voce. Forse sì. Cosa che mi sembra allora, sia Di Maio, Ma Di Maio, siccome la voce c'è stata, tra poco parleremo. Allora, però Mario, tu oggi pubblichi un dato interessante sulla tua newsletter, quella su mariocalabresi.it, mariocalabresi.com, che ricordo c'è ogni venerdì, di solito adesso le fai due a settimana, tutte gratuite. Anche al martedì, diciamo, sì. Settimana martedì prossima magari no, perché lunedì è Pasqua, aspetta, Pasqua fede, non c'è modo di montarla. esatto. Allora, ho fatto un ragionamento in questo periodo. In questo periodo le strade sono evidentemente vuote, svuotate di traffico. E allora sono andato a cercare i numeri e ho telefonato alla Polizia Stradale, al Viminale, ai Vigili di Milano, eccetera, eccetera. Ho raccolto tutti i dati e i numeri possibili sugli incidenti in Italia per vedere di quanto sono scesi. Naturalmente non è che volevo dire, ah, guardate quanti morti di meno ci sono, perché noi in questo momento stiamo contando i morti in più che abbiamo. Però per renderci conto di quanti morti ci sono in quello che noi consideriamo la vita nostra normale, quel tanto aspirato ritorno alla normalità. Quel ritorno alla normalità ha un numero di morti e di vittime. Ogni 3 minuti in Italia, nella normalità, c'è un incidente stradale e ogni 3 ore c'è un morto. Allora io ho pensato, quando noi speriamo nel ritorno alla normalità, ecco, forse ci sono delle normalità che non ci mancano, delle normalità che potremmo cambiare. Allora ti faccio un esempio preso dai numeri che ho raccolto delle grandi strade italiane. Qui non ci sono, sì, i centri cittadini, sono solo le strade fuori. Allora, l'anno scorso, nel periodo della, in quello che ho preso il periodo della quarantena, dal 10 marzo al 7 aprile, l'altro giorno, allora ci sono stati 5.359 incidenti un anno fa, con 3.500 feriti e 144 morti. Quest'anno sono 1.000 incidenti, cioè 4.300 di meno, sono 24 morti, 120 di meno, e sono 359 feriti, 3.136 di meno. Allora, ognuno di questi feriti sono le persone che normalmente riempiono le terapie intensive. Sono soprattutto, sì, ragazzi, la sera, la notte. Giovani. Allora, e quello che colpisce è questo. Questo virus contro cui noi stiamo combattendo in una maniera, perché io devo dire la verità, ma è questa cosa qua che si dica, ah, ma gli italiani sono indisciplinati, ma non è vero niente, cioè gli italiani stanno facendo un sacrificio con un rigore, una disciplina, una pazienza che non avremmo mai immaginato e non avevamo mai visto. Tutti noi che stiamo a casa, tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono tutti a casa, quindi tutta quella specie di chiacchiera, lo sai che la trovo fuori luogo, sugli italiani indisciplinati. C'è un dato: se noi applicassimo solo un pezzettino di questa pazienza e di questa disciplina quando torneremo in macchina ad avere attenzione, perché poi alla fine sono andato anche a guardarmi le cause degli incidenti, sono sempre le stesse. Sulle autostrade è la distanza, sì, di sicurezza. Non rispettare la distanza di sicurezza è mortale. E l'altro sulle strade è la distrazione. È nelle città sono il telefono e la velocità. Il telefono per chi guida, ma anche per i pedoni. Sono moltissimi gli incidenti in cui il pedone, distratto perché sta scrivendo, sta leggendo, attraversa la strada senza guardare e viene investito. Allora, c'è un dato. Il virus, e poi finisco, ma questa è una cosa che mi sta veramente a cuore. Il virus è qualche cosa che noi non noi possiamo stare in casa, ma noi non possiamo, la nostra razionalità non può niente contro il virus, cioè non c'è, oggi non abbiamo il vaccino, chi prende la malattia in una forma o in un'altra non dipende da noi. Invece andare più piano in macchina o non guardare il telefono mentre si guida dipende, sì, da noi, scelta. Salvare quelle vite dipende da noi. E allora questa cosa qua, io ho voluto mettere questi numeri per renderci conto quanta gente muore, rimane paralizzata, ferita ogni giorno sulle strade italiane in quella che noi consideriamo la normalità. Mario, ieri un ascoltatore, un po' anticipando evidentemente questo tema, e lo vogliamo rimandare, l'abbiamo ripescato, ci aveva lanciato, a partire da questa idea, sono calati gli incidenti, una proposta. Risentiamolo, Carmelo. È un periodo di crisi, si cercano i soldi. Ma perché lo Stato non se ne fa dare un pochino dalle assicurazioni? È 3 mesi che non guido la macchina, quanti soldi si è incassato? Non solo della mia. Non ho capito, un assicuratore le direbbe qui è partito subito, e non vogliamo mettere adesso contro assicuratori che si difendono contro i cittadini, però il tema è: ci sono meno incidenti, prendiamo soldi all'assicurazione. Io poi ho detto vabbè, allora i benzinai diranno ci si consuma meno benzina, date i soldi dell'assicurazione a noi, ed è un giro che non finisce che non finisce più. Comunque, caro Mario, dobbiamo salutare un ospite, perché c'è l'altro grande tema, quello dell'Europa, che ha deciso, insomma, avete sentito come ha deciso di finanziare in qualche modo questa grande crisi dopo grandi dibattiti. Ieri a un certo punto c'è stata non dico una crisi diplomatica, ma una presa di posizione molto dura del ministro degli esteri Di Maio contro il quotidiano Die Welt. Die Welt praticamente ha detto: non date i soldi all'Italia, che la mafia è lì che attende. Apriti cielo, Di Maio che si è offeso. Tra l'altro non ho capito una cosa: Di Maio che se la prende per un articolo di giornale dicendo Berlino smentisca. Questo, guarda, lo dico senza malizia, ma io pensavo, dall'idea del pensiero che si ha della stampa. No? Un ministro tedesco degli esteri che chiede a Conte di smentire un titolo di Libero? Appunto, questo per dirti... È un po', io l'ho titolato, il senso di Di Maio per la stampa, cioè la stampa che è al servizio del governo di turno e dovrebbe evidentemente, secondo lui, comportarsi così. Comunque, vogliamo sentirlo Di Maio, lo vogliamo sentire Di Maio? Che un quotidiano straniero dica che la mafia sta aspettando i soldi che l'Italia sta chiedendo a Bruxelles è una... affermazione vergognosa e inaccettabile. Io spero che il governo tedesco prenda le distanze da quelle considerazioni su questo quotidiano tedesco. Il governo tedesco, vabbè. Tra l'altro ti faccio sentire questo nel salutare il nostro ospite. Beppe Grillo, l'abbiamo ripescato oggi giornale, lo ricordano, qualche anno fa all'Europarlamento, Beppe Grillo, quindi uno che Di Maio dovrebbe conoscere. Senti. Bisogna capire dove vanno i finanziamenti. Io sono già venuto 2 o 3 volte qui in Parlamento. Sono venuto per dire: ragazzi, non date più finanziamenti all'Italia, perché date dei finanziamenti e scompaiono in 3 regioni: Calabria, Sicilia, quindi mafia, 'ndrangheta e Camorra. Non date ma di come? Più. Allora... Ma come? Non date? Ma come? Ma come? Non lo salutiamo Giuseppe. Hai capito? Beppe Grillo, cioè io dico la coerenza. Beppe Grillo ha detto all'Europarlamento: non dateci più soldi che vanno a mafia, camorra, 'ndrangheta. Giuseppe Antocci, buongiorno, ex presidente del Parco dei Nebrodi, e ben ritrovato, presidente buongiorno Antocci. A voi, buongiorno. Buongiorno. Allora, chi ha ragione, Beppe Grillo o Di Maio? Mi dica subito da che parte sta. Ma guardi, sta, io le dico subito come la pensato. Il tema di questo titolo di giornale, che onestamente le immagini quanto può fare male a me dopo quello che mi è accaduto per difendere i fondi europei. Il tema è più ampio, il tema è legato piuttosto a quello che in Europa oggi accade sui fondi europei, non solo in Italia. Vorrei ricordare le vicende legate al vostro collega Jan Kuciak, ucciso e giustiziato, mentre anche si stava occupando di Slovacchia, di una vicenda legata ai fondi europei gravissima. E c'è stata la condanna proprio pochi giorni fa per l'omicidio, però i mandanti chissà chi sono. Esattamente, c'è questo tema importante dei fondi europei in mano alla criminalità organizzata, ma questo non lo dico io. Guardate, la Commissione europea ha fatto una nota dove, citando il protocollo e la norma venuta fuori dal nostro lavoro, dal mio lavoro in Sicilia, il protocollo Antoci e la norma sul nuovo codice antimafia, dice: è uno strumento eloquente di lotta alla mafia nell'acquisizione dei fondi europei e la criminalità, e quindi di fatto invitava gli stati membri a seguire le orme dell'Italia. Allora noi ci dobbiamo capire: se da un lato in Europa noi siamo faro per le normative antimafia, abbiamo la legislazione antimafia più importante in assoluto, se noi siamo anche faro e qualcuno ci stava pure perdendo la vita nella difesa dei fondi europei, io direi che forse l'Europa dovrebbe occuparsi un po' di più anche degli altri stati e capire come mai le normative antimafia non vengono attivate anche negli altri stati. In Germania, poi, consentitemi, le infiltrazioni dell''ndrangheta sono abbastanza chiare, fino alla strage di Duisburg nessuno parlava di 'ndrangheta in Germania. Sì, però guardi, Antoci, su questo i tedeschi direbbero certo, la 'ndrangheta in Germania, però sono sempre italiani, nel senso che siamo sempre noi. Ma su questo non ci sono dubbi, però io mi aspetterei un'attenzione molto più forte anche negli altri posti, ma lo dice la Commissione europea stessa, per attivare tutte quelle misure che possano consentire anche di evitarlo tutto questo. Ma questo quindi, certamente. Al di là della caduta di stile, diciamo, di una generalizzazione di questo articolo, il tema c'è, però so che Mario Calabresi, per esempio, su questo ha un'idea nella quale tutti, secondo me, Mario, dovremmo essere attenti, no, nel descrivere anche l'Italia, o no? Ma sai, i giornali tedeschi e olandesi e la politica ha questa cosa che dice: ma siete voi stessi italiani a dirci che i fondi europei poi non hanno, sono la gestione opaca, in alcune regioni finiscono in mano alla criminalità, ma se lo dite voi stessi, che cosa volete da noi? Secondo me l'Italia dovrebbe, cioè, anziché fare questa partita, dare delle risposte serie di dire: noi di fronte a questi fondi faremo di tutto per garantire che ci sia trasparenza nell'utilizzo. La risposta non è indignarsi, perché appunto Di Maio si indigna e poi però era stato lo stesso Grillo, come ci hai fatto sentire, a sostenerlo. Quello che noi dobbiamo fare è diventare un paese che garantisce che i soldi che arrivano vengono spesi in maniera corretta e non clientelare e non finiscono nelle mani della criminalità organizzata, altrimenti non resta che arrendersi. Sì, come ha detto oggi il ministro Lamorgese intervistato dal Corriere della Sera, cioè saremo vigili, però questo basta, Antoci? Guardi, il tema anche molto forte, gli aiuti. Analizziamo, io anche il procuratore nazionale antimafia, altri magistrati, abbiamo posto in questi giorni un tema, cioè attenzione, perché oggi le mafie in Italia stanno tentando di diventare il surrogato dello Stato. Guardate, proprio l'altro giorno si sono verificate dei casi importanti dove anche a Palermo Cosa Nostra cominciava a fare la spesa alle persone. Cioè, il tema è: questi aiuti servono a liberare anche le persone dalla morsa delle mafie? Ma certamente sì. Dobbiamo affrontare quell'altro tema, non è che gli aiuti adesso arrivano e vanno nelle mani della mafia, probabilmente tolgono dalle mani delle mafie tante persone, tanti imprenditori in difficoltà che vanno a finire direttamente nelle mani degli usurai, e a volte quegli imprenditori stessi, le mafie gli acquisiscono le aziende e quegli stessi imprenditori diventano i prestanome di questi signori. Quindi attenzione quando parliamo di aiuti in questo momento, di aiuti europei anche nei confronti dell'Italia. È anche un modo per liberare le persone e non farle finire nelle mani delle mafie, che su questi argomenti sono bravissimi. Io vorrei ricordare quello che è accaduto post terremoto in Campania. La Camorra negli anni 80 è diventata mafia del cemento. Quello che è successo negli anni 90, quando c'è stata l'emergenza dei rifiuti, le mafie sono diventate SPA dei rifiuti e ancora oggi su questo settore ci lavorano. Quindi io porrei il tema dell'aiuto dell'Europa anche sotto questo profilo, a prevenzione delle infiltrazioni criminali. Ah, ma è chiaro, adesso vedremo. Noi, nel ringraziare Giuseppe Antoci, ripeto, ex presidente del Parco dei Nebrodi, di essere sopravvissuto a un attentato, poi ha messo in piedi un protocollo di legalità contro le agromafie che è diventata una legge nazionale, Mario, ovviamente sì, si parla di caduta di stile, al di là di questo sta di fatto che anche questo è stato lo scontro con l'Europa, no? Passa anche attraverso queste, a proposito dei toni che hai sentito, i toni nazionalisti, sovranisti da una parte, i toni da tifosi, alla fine tu che lezione hai tratto da questa Europa, da questa pandemia e dalla risposta che l'Europa ha dato? Purtroppo è vero che un pezzo dell'Europa ha un pregiudizio, ha un pregiudizio sul modo di su come l'Italia potrà utilizzare i soldi, al terrore del debito italiano, questo prima di tutto, sì. Gli olandesi, poi i tedeschi, e su questo hanno dato battaglia. Noi però, secondo me, anziché chiuderci a riccio, dovremmo cercare di smontare i pregiudizi. Alla fine i soldi in un modo o in un altro stanno arrivando, cioè la BCE sta comprando titoli italiani in un modo che non era mai accaduto, cioè quindi cosa sta facendo? Sta sostenendo il debito italiano, evitando che siano obbligate a comprare le banche italiane. Quando si dice facciamo tutto da soli, ma se no ce li prendiamo noi, questo significherebbe obbligare gli italiani a usare i propri risparmi per pagare il debito, e io penso che moltissimi italiani direbbero no, scusate, io di accollarmi io il debito dell'Italia, di cui appunto non so poi come verrà speso o se verranno mai restituiti, non voglio, e quindi a maggior ragione lo fa un cittadino olandese. Detto questo, in questa storia, che è una storia di assenze e anche di egoismi nazionali, c'è una cosa terribile, che stiamo sempre a rimorchio degli estremisti. Perché gli italiani che dicono, ci sono gli italiani che dicono bruciamo la bandiera europea, i tedeschi fanno schifo, sì, nazisti, sì, eccetera, eccetera. E ci sono i tedeschi o gli olandesi che dicono mafiosi, a voi i soldi non li diamo, non vogliamo avere niente a che fare con voi. Io credo che dovremmo finirla, dovremmo badare alla sostanza. Cioè, in questi giorni, ma perché il governo italiano si deve occupare di un titolo di giornale tedesco? Ma chi se ne frega, lo dico fuori dai denti, si occupi delle cose serie, si occupi di fare un piano, perché anche qui ci dicono, ma forse potrebbero tornare a scuola il 18 maggio, forse non tornano, sì, sì, e la fase 3, sì, è Pasqua, poi il 3 maggio, poi il 16 maggio. Facciano così, si occupino di fare un piano serio e poi lo ci spiegano cosa dobbiamo vivere. No, non ce ne frega niente dei titoli di giornale tedeschi. Infatti dovremmo titolare, se no giochiamo all'otto i numeri che danno. Ma questo, guarda, giusto per concludere, caro Mauro Calabresi, oggi tu hai parlato di egoismi, vi segnalo Carlo Pizzati sulla Stampa. No, c'è una battuta che circola di quei meme che ormai vanno in giro, che dice, ci vede Conte e dice la fase 2 è come la fase 1 ma in maniche corte. Certo, in maniche corte. Sembra andare avanti così. No, oggi Carlo Pizzati sulla Stampa racconta che laddove prevalgono gli egoismi, gli individualismi, cioè in Occidente, rispetto alla società più collettiva, più attenta al collettivismo, quelle per esempio cinesi, sudcoreane, Singapore, ecco, laddove prevalgono gli individualismi il virus va a nozze, invece se si reagisce in io maniera però, collettiva. Io però rispetto al pezzo di Pizzati distinguerei una cosa. Diciamo che in Cina prevale, sì, no, prevale un regime, il regime, anche l'omertà. E quindi eviterei di seguire l'esempio cinese, mentre quello sudcoreano, essendo la Sud Corea una democrazia che riesce a tenere più sotto controllo il virus, soprattutto con la tecnologia, ma anche con un certo rispetto. Poi diciamo che dal primo minuto erano più attrezzati di noi, perché i cinesi non si abbracciano, non si baciano, tengono le distanze e le mascherine anche in tempi non sospetti. Per anni abbiamo visto i giapponesi sugli aerei o nei treni con le mascherine e pensavamo che erano matti, adesso certo. Siamo finiti tutti così. Caro Mario Calabresi, buona Pasqua, ci risentiremo. Anche a tutti voi. Stacci bene, a te, a tutti gli ascoltatori. Ovviamente a presto. Grazie. Intanto un attimo, ciao, in pubblicità. Ciao. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, perché menti spudoratamente? Di Maio non ha chiesto una smentita, ha chiesto una dissociazione al governo tedesco rispetto all'articolo. Uè, Milan, visto che ci sono le strade vuote adesso, non si potrebbe fare un pochino di rattoppo delle buche e sistemare tutte queste strade che fanno così schifo? Buongiorno, vi ho appena sentito dire che gli italiani sono disciplinati. Ecco, buongiorno, io vorrei chiedergli, io sono autotrasportatore, si faccia un giro in tangenziale, è due giorni che le tangenziali di Milano sono non del tutto piene, ma ci manca poco. Si faccia ce un lo giro, segnalano in molti, ce lo segnalano in molti. Ha ragione, scrive un ascoltatore, ho fatto 3,5 km a Milano per lavoro, 4 runner ho incontrato, auto in coda in Viale Monza, anch'io lo vedo, abito su Viale Monza, quindi mi sporgo dal balcone e vedo che è aumentato molto. Gente con la mascherina 50%, in Lombardia c'è l'obbligo di coprire il volto, ognuno fa i fatti propri, Giancarlo da Milano. So che Leonardo Manera è molto contento di questo ingresso. Ecco, cosa succede? La mia pistola sanificatrice. Sì, no. Adesso ho iniziato a usarla anche per l'igiene personale, è un po' troppo caldo forse. Sì, ti brasi un po' la pelle se fai ma così. Ma sotto . Le ascelle per esempio va bene. Sì, come depilatore forse. È un po' troppo caldo. Cosa stai pulendo adesso esattamente? Il sto nido del pipistrello? No, un piatto con la pistola a vapore sto provando, per vedere se funziona anche sui piatti. Credo di sì, funziona bene. Ma. No, per dire all'ascoltatore di prima, buongiorno, dissociarsi o smentire, sì, vabbè, forse ho detto smentire, il giornale, la stampa in generale è libera e quindi è un governo, non si deve dissociare o smentire da nulla, né dissociare né smentire. Se uno dice e chiede a Berlino di dissociarsi, vuol dire che ha in mente un concetto di stampa asservita al regime di turno o al potere di turno, per cui può essere controllata dal potere di turno. Comunque, e quindi chiudiamo cosa, qui cosa l'argomento. Può fare il governo? Può stigmatizzare. Niente. Al limite, può stigmatizzare, sì. Può dire, sì, questo ma titolo neanche, non mi sembra proprio. Neanche. Ma neanche, non deve dire nulla, cioè nel senso, ci sarà. Ma ho capito, ma perché il governo deve commentare il titolo del Sole 24 Ore o del Corriere della Sera? Se attacca il governo, può dire noi ci difendiamo, ma se attacca un altro governo, cioè, o non un altro governo, se attacca la mafia, cioè, non lo so, veramente. Secondo me può stigmatizzare, io dico che può stigmatizzare. Va bene, stigmatizzino. Allora, caro Leonardo, dobbiamo presentare un ospite perché torna qui a Radio 24. Lo faccio leggendo qualche brano di Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera. Il titolo è Dottor Cento, il centesimo medico morto di coronavirus, ma in realtà sono già 105. Era una signora di 62 anni, scrive Gramellini, si chiamava Samar Sinjab, era venuta dalla Siria. Aveva inseguito l'amore per un pediatra di nome Omar e nella provincia veneta in cui abitavano erano un'istituzione, tutti chiedevano di andare da lei. Si è ammalata, quando è morto il marito i figli hanno proseguito il lavoro, entrambi medici, e poi privata del grande amore della sua vita Samar si era dedicata ancora di più ai malati, ancora di più ai figli, e il 6 marzo quando aveva intuito di essersi presa quella polmonite si era ricoverata nel reparto di terapia intensiva a Treviso, da dove ogni giorno chiedeva ai colleghi notizie dei pazienti perché era convinta di tornare in prima linea. Invece è caduta sopra una collina di altri camici bianchi, medici, infermieri mandati allo sbaraglio con armature sforacchiate. Io saluto Paola Pedrini, che è segretaria della Federazione Italiana Medici di Famiglia Lombardia. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Pedrini. Buongiorno. E tra l'altro è lì nella Bergamasca, non so se è proprio Bergamo, ma insomma questa è la sua, le sue origini. Sì, provincia di Bergamo. È la mia provincia di Bergamo. Sì. 105. Gramellini dice: quando tutto sarà finito non basterà una medaglia alla memoria, siamo veloci a dire eroi, forse ci vorrà qualcosa a capire che cosa sia successo. Lei dal pieno dell'emergenza lo sta capendo? Beh, innanzitutto vorrei dire che ribadire che preferiremmo non essere chiamati eroi, preferiremmo semplicemente fare il nostro lavoro che abbiamo scelto in sicurezza. Questo è quello che continuiamo a chiedere e ancora purtroppo non riusciamo ad avere delle risposte corrette, non riusciamo soprattutto ad avere quei kit di protezione di cui tutti i medici devono avere diritto in questa emergenza, assolutamente. Quindi continuiamo a lavorare rischiando la nostra vita tutti i giorni. E questo è davvero incredibile. Ma come mai non ci sono delle misure base per persone che ricevono quotidianamente possibili malati di coronavirus? Ci sente Pedrini? È caduta la linea? Chiedo alla regia. Forse è caduta la linea, proviamo a ripristinarla. No, è la domanda che ci siamo posti tutti, Leonardo: come sia possibile? Tu tra l'altro hai un fratello, l'hai detto varie volte, che è medico di famiglia, sì. Ed è incredibile, sì, insomma, che lui, quei luoghi, gli ambulatori non siano protetti. Non solo gli ambulatori, ma poi spesso va nelle case private a visitare molti malati di coronavirus che appunto che fanno la malattia a casa. Quindi, ed è abbastanza incredibile che non ci sia questa protezione. Abbiamo recuperato Paola Pedrini, ha capito esattamente dove è mancato qualche sistema di prevenzione? Beh, più che è mancato il sistema di prevenzione, è proprio mancato appunto una presa di posizione fin dall'inizio della pandemia, quindi non si sono fatte scorte di questi dispositivi di protezione. Non voglio entrare nel merito di a chi toccasse fare queste scorte, assolutamente, preferirei che le regioni e il governo non litigassero ma si impegnassero insieme per proteggerci, questo sicuramente è il nostro appello, ma soprattutto non focalizzarsi troppo sulle mascherine perché sono solo una minima parte del kit di protezione, c'è tutto un insieme di cose, la protezione deve essere completa, quindi maschera facciale, occhiali, guanti e mascherine sicuramente. C'è, come si comporta lei con l'ambulatorio? Perché molti medici lo hanno chiuso, fanno le diagnosi al telefono, diciamolo francamente, nel senso che anche come misura di propria sicurezza, di sicurezza anche delle segretarie, dei dipendenti. Abbiamo ridotto sicuramente al minimo indispensabile i contatti con i pazienti, sia perché appunto non avendo dispositivi di protezione rischiamo ed è successo di ammalarci e il problema non è tanto che ci ammaliamo noi, il problema è che poi diventiamo potenziali diffusori della malattia, sì. Soprattutto quando poi incontriamo quei pazienti fragili, cronici, che sono la maggior parte dei nostri pazienti, rischiamo di contagiarli, lì sarebbe veramente grave. Quindi questa è la beffa delle beffe, sa che sui giornali adesso si inizia a dire i veri, lo so che uso questa parola brutta, untori rischiano di essere i medici, cioè quei medici che non solo muoiono, che devono salvare la nostra vita, ma che invece diventano adesso anche veicolo di questo virus ovviamente. Sì, beh, purtroppo i medici e gli operatori sanitari non hanno il diritto di fare una quarantena quando vengono in contatto con un paziente sospetto, quindi devono continuare a lavorare. In molte occasioni hanno continuato a lavorare anche quando avevano manifestato i primi sintomi, proprio per una carenza generale di medici hanno dovuto continuare, sempre limitando il più possibile il contatto con i pazienti, ma sono andati avanti a lavorare pur essendo malati. Ma almeno negli ultimi giorni c'è stato un miglioramento per quanto riguarda i dispositivi di protezione oppure siamo sempre a un livello troppo basso? Siamo sempre a un livello molto basso, sempre a un livello basso, kit incompleti, quindi abbiamo ricevuto molto di più da donazioni di liberi cittadini, di pubbliche amministrazioni, di formatori farmaceutici, di aziende farmaceutiche. Le donazioni, grazie a Dio, continuano ad arrivare, però purtroppo il numero comunque è insufficiente, dalle istituzioni ancora meno. Niente, senta, ha capito, c'è l'altro grande tema di cui si dibatte. Io una cosa che mi spaventa è quando, mi spaventa nel senso, lo dico in senso di scetticismo, si iniziano a muovere le procure, per carità, grande rispetto per il lavoro dei magistrati, ma quanto è la storia dell'Italia, quante volte abbiamo visto indagini su indagini che dureranno anni per cercare di vedere chi sono i responsabili, poi abbiamo capito anche due giorni fa dal professor Alfonso Celotto, esperto di burocrazia, democrazia che per esempio sulla zona rossa di Alzano ci sono due leggi, una statale e una regionale, che confliggono e che danno la possibilità sia allo Stato sia alla Regione di poter intervenire e decidere una zona rossa. Cioè in questo marasma di burocrazia tutti sono colpevoli e nessuno è colpevole. In Italia poi finisce sempre così più o meno. Quindi mi spaventa un po' tutte queste inchieste che dureranno chissà quando per vedere i responsabili. Lei ha capito, si è fatta un'idea, Paola Pedrini, del perché per esempio si parla molto del pronto soccorso di Alzano, non è stato chiuso, è stato chiuso, non è stato sanificato, invece sì, invece no? Gli errori fatti sono sicuramente tanti, però in questo momento in cui siamo ancora all'interno di una piena emergenza, perché anche se vediamo un miglioramento siamo comunque ancora in emergenza, preferirei che si focalizzassero non sulla ricerca di un responsabile ma sulla correzione di questi errori per evitarne altri. Questa deve essere l'obiettivo principale di tutti in questo certo, momento. Ma voglio dire, la via per capire un domani che ha sbagliato è la magistratura, secondo lei? Glielo chiedo, io sono un po' scettico, ma lo chiedo a lei che è lì. Da sola la magistratura sicuramente no. Devono esserci anche esperti in materia, quindi comunque medici, operatori sanitari ed esperti sicuramente. Va bene, noi vedremo. Intanto la ringraziamo molto, grazie per essere stata con noi, Paola Pedrini, ripeto, segretaria della Regione Lombardia della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Dobbiamo andare al traffico, caro Leonardo, ci sono dei messaggi, un pensiero per voi da Alessandra. Grazie Alessandro e Leonardo per la compagnia, incredibilmente la nostra compagnia la rallegra. Vuoi mandare un messaggio particolare ad Alessandra, caro Leonardo? La invito a cena a casa mia a giugno. No, non puoi. A giugno. Di che anno? 2022. Ecco, infatti immaginavo, hai già spostato avanti di un anno dai traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Più che Radio Kabul oggi sembra Radio Pagliacci. Bene. Ma perché gli olandesi e i tedeschi ce l'hanno così tanto con noi? In fondo sono nostri fratelli, no? Metà di loro saranno i figli dei nostri bagnini della Romagna, degli anni passati. Questa c'era già arrivata ieri via mail, via mail, vabbè, insomma. Comunque, Radio Pagliacci, non lo so perché ce l'abbia con te così tanto, caro Leonardo. Sono però appena arrivato, nostro... si riferiva evidentemente a quello che c'era. Io non c'entro, sono arrivato adesso, ma quello che arriva per ultimo è la colpa di tutto. Tutto certo. è un classico, guarda. Ma io lo faccio apposta per farti, sì, cioè, per farti classico, arrabbiare. Un classico, ma uno, sì. Scusate, io dico sempre, noi siamo aperti alle critiche, ma perché uno dice Radio Pagliacci? Ma spiegate il motivo, sennò io rimango. Appeso così io, e non dormo io. Questa notte te non dormo io. Perché mi ha dato del pagliaccio, te lo spiego io, perché in Italia purtroppo è sempre pieno di fenomeni che pensano di essere i detentori della verità, no, e quindi... mi ha dato del pagliaccio, mi ha dato del mio. Non ce la faccio più, scusate, la quarantena mi ha dato del pagliaccio, questo ascoltatore, io non ce la faccio più. Ha detto pagliaccio o pagliaccio, come dicevano lui a te. Lui almeno ha detto pagliaccio col GL e non senza la G come dicevano a me, pagliaccio così. Allora, ci ha scritto una mail molto interessante, sì. Un ascoltatore che è agente di viaggio della provincia di Ferrara, si tratta di Walid, se non sbaglio egiziano di origine. Buongiorno Walid, noi l'abbiamo chiamato allora. Buongiorno. Ci ha posto un problema che vorrei raccontasse agli ascoltatori. Vai Walid. No, niente, si trattava che del fatto che sono uno di quello che rientra nella categoria delle casse integrati, quindi ci aspettava questa cassa integrazione, insomma, da parte della Regione Emilia-Romagna. Ho chiesto informazioni al mio commercialista sulla modalità di inoltrarla, tutto quanto, cioè fra vari cambi moduli e cambi, insomma, strategie, in via questo, poi questo non va bene, questo non va bene, questo va bene. ieri mi arriva un'email dal mio commercialista in cui mi dice che abbiamo trovato il modulo giusto, bisogna però andare a pagare una marca da bollo da 16 euro per inoltrare la richiesta. Sinceramente, okay. Cioè, non so se vi rendete conto, cari ascoltatori. Poi si parla di burocrazia, Zingaretti che dice liberiamo l'Italia, sburocratizziamo. Cioè, Walid per fare la domanda deve mandare una domanda con tanto di marca da bollo da 16 euro, solo per farla la domanda, eh? Poi verrà accolta la domanda, si spera di sì, se no chi glieli dà indietro questi 16 euro peraltro, esatto, a Walid? Prima di prendere addirittura bisogna anticipare, sono dovuto uscire di casa perché comunque noi come agente di viaggio lavoriamo quindi da casa con smart working, insomma la nostra azienda ci sta assistendo in questo periodo brutto sicuramente. Però ho dovuto quindi abbandonare la casa per andare a comprare la marca da bollo, attaccarla sul modulo e mandarla in attesa di... Cioè, non è capitato a nessuno, perché io sono uno che segue la TV, tutto quanto. Sinceramente non ne ha parlato nessuno, quindi mi suonava veramente una cosa molto, molto, molto strana. Però ho seguito le regole, l'ho mandata nell'attesa, insomma, di capire un attimo di che esito avrà questa richiesta. Incredibile. Vabbè, insomma, Walid ci ha raccontato con questa esperienza concreta, caro Leonardo, anche solo fare una domanda richiede una marca da bollo da 16 euro, per cui ho dovuto uscire, poi parlano di sburocratizzare. Due giorni fa il professor Celotto ci ha detto basterebbe una app, tutti abbiamo ormai gli smartphone, un'app con cui il cittadino parla con tutti l'amministrazione, ACI, INPS, insomma tutti gli uffici principali, le ASL e chi più ne ha più ne metta, le poste, se vogliamo mettere anche delle aziende, insomma, che spesso sono frequentate dai cittadini, un'app, e invece marca da bollo, 16 euro, questo succede. Vabbè. Potresti usare vabbè, dimmi. Appassiona molto questa cosa, no, a me piacciono le marche da bollo. La marca da bollo mi è sempre piaciuta perché mi dà l'idea dell'ufficialità. Ecco, quando io vedo una cosa con la marca da bollo, la sensazione. Sì, quindi vabbè, io sono un sostenitore delle marche da bollo. Comprarne altre due o tre, così da tenere in casa. Guarda te invece chi ci dobbiamo ritrovare anche poco prima di Pasqua. Anacleto, mamma mia, ragazzi, ma non fa vacanze questo qui. Buongiorno a tutti e auguri a tutti gli italiani. Ciao. Salutiamo la chiesina, ovviamente. Anzi, auguri a tutta la chiesina. Senti una cosa, Maria. Per davvero, non sai l'altro giorno guardavo io mi chiamo Alessandro Maria e quindi lui mi chiama Maria, no? Questo lo diciamo agli ascoltatori, perché magari vabbè. Ora ti cambio cognome, lo sai. Sembri cosa? Sì. Sembri il primo ministro britannico, Boris Johnson. L'hai visto? C'è proprio il ciuffo come lui. È davvero, Hai chiamato per dirci questo, che assomiglia a Boris Johnson. Voglio farvi tutti gli auguri, perché insomma ce n'è bisogno parecchio a tutti gli italiani. E poi, se mi permette, il compleanno delle mie figliole, la Chiara e la Serena, volevo fare gli auguri a loro. Due figliole, so che sono gemelle? Sì, sono due gemelle, la Chiara e la Serena. Stupendo, Chiara e Serena, auguri. Sì. Ma non è una bugia tua, Anacleto? Allora, da bugiardo ti fa gli auguri Leonardo a Chiara e Serena. Leonardo, dai, Chiara e Serena, le figlie di Anacleto. Chiara e Serena, mi dispiace che insomma abbiate un parente come Anacleto, ma vi è capitato questo, quindi auguri lo stesso. era ovvio che te arrivasse qualcosa, voglia te, me lo immaginavo. Comunque, vabbè, davvero... Anacleto, mi sembra una Pasqua la tua che sarà molto sottotono. Da quant'è che non fai un aperitivo? Dall'11 di marzo che non torno di casa. Acqua e vino. Sono uscito il primo d'aprile per riscuotere la pensione e basta. E andare in farmacia a pigliare le medicine, perché mi ci vogliono le medicine anche per stare a casa, hai capito? E poi non sono mai uscito. Nulla. Niente più bistecche da Benito, funghi fritti, tutto chiuso. Nulla, neanche una... c'è il vino buono, ma ce l'ha il mio gnato, c'è un cantina sotto controllo. E sicché c'è la cantina, un vinaccio da 0 a 0 si beve a tavola. Niente. Cos'è la cosa più oltre il Mozambico che ti è rimasta in questo momento? Niente. Nulla. Ragazzi, chiama Renzo. Sei più amaro di Manera. No, dai. Sei sempre così vivace. Ti prego, Anacleto, l'Italia dipende dalla tua vivacità, dal tuo... sono un po' malinconico. Ma però appena abbasso la bandierina vedrai... che si riparte, qua non fanno altro che telefonarmi, oh, appena siamo pronti, devi trovarti qualche vizio per superare il momento. Tu sicuramente dei vizi ne hai tanti, trovane uno che ti gratifichi in questo periodo casalingo. Nulla. La televisione, dormo fino a mezzogiorno, poi un'ora in giardino, tranne oggi. Ci ritorno a letto. Vabbè. Sì, è una roba incredibile. Io nel momento in cui trovo Anacleto amareggiato, per me è finito tutto, cioè ha vinto il coronavirus a questo punto. Dobbiamo alzare bandiera bianca, ha vinto perché c'è anche Anacleto e ha battuto. Anacleto, sì, ti auguriamo una amara Pasqua, non lo so, che dobbiamo fare? È così. Vabbè, meno male che la Serena e la Chiara fanno. Quanti anni hanno? 44. Mi sembra 44. Mi sembra 44. Giusto. Mi sembra 44. Anacleto, ti mandiamo un grosso abbraccio. A tutta la redazione, a voi. Grazie. Bene, grazie. Mi sono depresso tantissimo, Anacleto. Leonardo, mi sono depresso. Devi dire qualcosa tu. Ecco, ho trovato una notizia per tirarti su di morale. Oggi su Libero c'è questa notizia. Sai il settore che va per la maggiore, quello che non ha subito non solo flessioni, ma anzi ha subito un aumento perché si compra online? Saranno gli alcolici. I giocattoli erotici, boom, vendite certo. Di vibratori e affini. Così scrive oggi il Libero. Vero. Io ne ho comprati 10. Ho comprato 10 vibratori, ma non so cosa fare. Li utilizzerò prima o poi in qualche modo. Va bene, meno male che hai finito la frase così, quando non so cosa fare e poi hai lasciato scemare il tono della voce, perché non vogliamo sapere i dettagli. Comunque, giocattoli erotici, la crisi non c'è, lì c'è boom, ve li comprate e ve li portano a casa evidentemente. Dobbiamo andare a sentire il giornale radio, ragazzi, io mi sono abbattuto, mi è andato del pagliaccio e ho sentito Anacleto triste, non so che fare, non ne uscirò, giornale radio. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore insieme a Radio 24 e Radio Cor sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Alessandria ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda ospedaliera nazionale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo, hashtag sole per ospedale Alessandria. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Uno, nessuno, 100 Milan. Premiamo le imprese italiane che stanno arrivando. Chi è qua? Ci sono urla dall'altra parte del condominio, però d'altronde sono sul balcone. C'era lo saluto. Salvini che siamo parlava qua, ieri insieme agli uccellini e uno dal condominio che gli ha detto dici solo beep. Vabbè, succede con queste dirette. Va bene, dai Leonardo, è il momento, mi scuso ma prima mi sono intrattenuto con la tristezza di Anacleto, è il momento, è il tuo momento insomma in cui... Allora, tra due giorni è Pasqua, una Pasqua che sicuramente sarà diversa da quella che siamo abituati a conoscere, una Pasqua che molti di noi passeranno da soli a casa. Io per esempio non sarò con mio figlio e potrò godere della discutibile compagnia di me stesso e probabilmente di qualche videochiamata. Quindi mi alzerò, mi saluterò allo specchio, mi preparerò la colazione chiedendomi se voglio dei biscotti e mi risponderò sì grazie, un paio. Poi butterò giù il caffè latte, forse ascolterò la messa in TV o in radio e al momento in cui ci si scambia il segno di pace, terrò stretta la maniglia del frigorifero, abbracciandolo e guardandolo con un po' di commozione. Poi mi augurerò da solo buona Pasqua, dicendo anche grazie, grazie altrettanto, e apparecchierò la tavola nel migliore dei modi, come se con me ci fosse la mia famiglia, anzi metterò del cibo anche nei piatti di quelli che non ci sono. Dopo pranzo una pennichella sul balcone a prendere il sole, però cercando su Google il rumore del mare, che lascerò in sottofondo a occhi socchiusi per fingere di essere magari a Varazzo, in qualche località balneare, anzi, visto che devo sognare, cercherò su Google rumori di mari dal sud. A una certa ora poi cambierò stanza, dove in precedenza avrò già preparato uno spuntino, un dolcetto, come se dopo il mare mi fossi inoltrato nelle vie del centro per fare merenda. Pagherò anche lo spuntino, come se fossi al bar, mettendo qualche euro nel salvadanaio di mio figlio. Poi verso le 6 arriverà il momento della doccia. Fingerò di non capire bene come si regola l'acqua, come capita a volte quando ti lavi in hotel. Quando raggiungerò la temperatura giusta, tirerò un bel sospiro di sollievo ed entrerò nel box doccia per rilassarmi e per riprendermi dalla giornata di sole che, si sa, stanca sempre. Per cena poi mi cambierò vestendomi sportivo ma un po' elegante con camicia bianca per mettere in risalto la prima abbronzatura e giacca ma senza cravatta guardandomi allo specchio e poi andando a chiedere un parere al frigorifero che ritengo l'elettrodomestico con cui ho più familiarità soprattutto in questo periodo. Se il frigorifero non avrà nulla da obiettare come presumo tornerò in camera per mettermi mutande, calze e pantaloni e poi un paio di scarpe, come se davvero dovessi uscire. Per cena qualcosa di leggero, ma comunque saporito, per non farmi dimenticare che è un giorno di festa, con un brindisi, un calice nella mano destra e uno nella sinistra. Cin cin. Poi per simulare il rientro a casa e la coda dopo la giornata pasquale, starò in piedi, fermo, per un'ora, facendo solo piccolissimi passi dal tavolo fino al divano. Sarà arrivato comunque a quel punto il momento di andare al cinema prima di coricarsi e qui avrò un'ampia possibilità di scelta. Sceglierò un TV, un film che ho già visto e che non mi piace per potermi poi lamentare come succede qualche volta quando si va al cinema e si resta delusi. La giornata ormai è quasi conclusa. Tornerò per un attimo sul balcone a riflettere sui mille impegni e spostamenti che i giorni di festa comportano e poi, dopo aver respirato l'aria pulita che c'è a Milano in questo periodo, mi avvierò verso il letto dove dovrei concludere il tutto con un bel rapporto sessuale. Ma per mancanza dell'elemento essenziale, quello umano, accarezzerò invece l'abat-jour e le dirò «Tu sei la luce della mia vita, anche nelle notti più profonde». Poi spegnerò la luce e prima di dormire penserò che sono fortunato perché almeno ho un frigorifero e un abat-jour su cui poter contare anche in questi giorni, pensando intanto a come organizzarmi per Pasquetta, anche se dopo una giornata così impegnativa forse potrei anche rimanere a casa a riposare per Pasquetta. Poi arriverà il sonno e prima del sonno solo gli ultimi pensieri per augurare buona Pasqua a tutti da parte di Leonardo Manera. Curto. Che bella Pasqua, c'è una videocamera che la riprendi tutta e metti degli spezzoni. Perché ma purtroppo non sarà solo la mia, magari così. Non, credo che non lo spezzone finale, non quello del rapporto sessuale. No, sì. Non ce l'avrò, la accarezzerò solo la bagiura, sì, si può accarezzare. Sì, sì. Sì, sembrava abbastanza amaro come pezzo, ma abbastanza era. Insomma, come no, dire, soprattutto il frigorifero con cui parli apri è vuoto, ci sono sempre una mezza zucchina, mezzo melone ormai marcio, lo stesso di un mese fa. Vabbè, tiriamoci su di morale un po', sentiamo. No, ti faccio notare che sarà così la Pasqua di molti italiani questa volta. Sì, ma certo, non sarò ma certo, sì, sì. Sì, sì. Solo che loro non la raccontano con tanta amarezza in radio, ma con tanta maestria anche, loro vivono l'amarezza e non hanno l'occasione e la capacità di raccontarla così. Va bene, stiamo tutti a casa, certo è facile con le villozze e le piscine di Maurizio Bianconi, eccolo qua, voglio salutarlo con questa grande, con questo grande affetto. Dove sei, in piscina a farti un gin tonic? Come no? Una tazzina fuori terra 2x4. che si sguazza. Da, due per quattro, sguazzi, due uno stagnetto. Quattro. Uno stagnetto. Vabbè. Vabbè, Maurizio. Siamo qua da un mese. Siamo qua da un mese. Sì. Siamo qua da un mese, lo so, tutti da un mese. Io sono nella ridotta di Viale Monza. Ti faccio una domanda, poi c'è il traffico, poi approfondiamo. La prima domanda è questa: tu che avresti fatto lì con gli olandesi? Mettiamo ministro delle finanze Bianconi, va lì in Europa, cosa fa? Cosa no, facevi? Non mi sarebbe meravigliato degli olandesi, perché gli olandesi sono la testa di ponte o da rete dei tedeschi. Quando parla l'Olanda, parla la Germania, questo nel mondo finanziario e economico è noto, quindi non mi sarei arrabbiato con i olandesi, avrei fatto come diceva il mio nonno, che delle persone intelligenti, chi è intelligente quando c'è da fare da coglione gli riesce bene, sono ai coglioni che quando devono fare gli intelligenti gli riesce mai. E io un po' più complicato, sì. E io avrei fatto da coglione, sì, mi capisco eccetera, e poi sarei andato a quella strada. Non mettersi contro l'Europa in questo momento è mortissimo, darsi dell'Europa è altrettanto mortissimo. Ma fa per e la tua strada c'è per conto mio. Se io ho per conto mio. Adesso aspetta, sì, ce la dici, ti ho detto una domanda, facciamo il traffico poi ce la spieghi per conto suo Maurizio Bianconi, vediamo un po' che vuol dire, dai, Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, eccoci qua, detto che è arrivato il messaggio oggi amaro ma nera top, effettivamente sulla Pasqua, però diciamo c'è la soluzione di Bianconi. Che vuol dire avresti fatto di testa tua? Io non mi sarei arrabbiato con l'Europa, non avrei accettato mai il MES, perché il MES è una forma di allungare la corda, dare pune per impiccarsi dentro. Avrei detto sì, lo vediamo, eccetera. Poi avrei fatto come si fa in tutte le famiglie, dove ci sono i meno ci si mette i più che abbiamo. Noi abbiamo 10.500 miliardi di ricchezza privata, sui quali nessuno parla, la prima ricchezza privata del mondo. Di questi 4.500 miliardi sono in contanti, sono soldi. Di questi 4.500 che sono in mano a me, alla signora che ha 50 euro da parte, sono 4.400 miliardi. Di questi 3.000 miliardi sono impiegati in investimenti di cui ovviamente al 99% si occupano le banche. Basta indirizzare i soldi che abbiamo messo all'estero, perché sui buoni del tesoro, cioè sul debito italiano, di questi 3.000 miliardi c'è soltanto il 5%. Basta direzionare sui buoni del tesoro italiano 3, 4, 500 miliardi di questi e fare un prestito che impropriamente e improvvidamente Salvini chiama prestito di guerra, ma non ha capito bene quello che dice. E praticamente con la nostra, rimettendo in circolazione la nostra ricchezza privata, troviamo sì, ma veri. Indirizzarli che vuol dire? Io investo dove voglio, cioè sono soldi miei, no, appunto. No, e non li metti mai dico. Dove vuoi, perché te sei forse un investitore maturo, ma il 99% degli italiani li mettono dove le banche gli dicono sì esatto, dicono. Quindi ho capito tu dici bisognerebbe fare una grande operazione in questo, passami il termine, sovranista italianista, cioè indirizzare tutti quelli che investono autonomista su investimenti bot italiani. È inutile che tu dai soldi agli altri e poi tu chiedi prestiti soldi agli altri che non te li vogliono ovviamente dare se non ti mettono il capestro. D'altro canto, che l'Europa faccia così, io non mi meraviglio. A me quello che mi meraviglia molto sono quelli che si scandalizzano. L'Europa è governata dalla Banca Centrale Europea che emette la moneta. Chi decide la nostra politica economica è il presidente della Banca di Vabbè, dai, però non è proprio così. Poi ci sono le politiche degli stati, le politiche, no? Le politiche degli stati sono ininfluenti rispetto alla volontà della Banca Europea. Quando Draghi voleva fare il quantitative easing, come cavolo si chiama, l'ha fatto nonostante che la Germania non volesse, eccetera. E quindi evidentemente lì il potere risiede lì. E siccome la banca per scopo di profitto e vende denaro, non ci si può aspettare altri di beneficenza dalle banche. C'è poco da fare. Vabbè, comunque, insomma, Maurizio Bianconi, dal forte a questa teoria, cioè reindirizzare su investimenti in BOT italiani. Hai scritto anche il libro, è vero? Ne dobbiamo parlare quando avrò letto il libro. Perché? Ma non lo leggo, ma perché è rimasto in redazione? Io sono nella ridotta di Viale Monza. Confermo che non è mai stato letto quel libro. Sono il primo a dirlo, è rimasto lì in redazione. È in redazione, Maurizio. Ti devo salutare per la Pasqua. Ti sei troppo impegnato a sfruttare i tuoi figlioli nei lavori domestici. Questo è vero. Ho imparato da Manera. Manera ne ha uno, Beniamino lo mette a pulire il bagno, io ne ho due e li metto a pulire, uno il bagno e uno la stanza. Che devo fare? Maurizio, ti devo dare un grosso abbraccio perché arriva Pasqua. Prima abbiamo sentito lo chef Davide Oldani, ospite di Simone Spezia e Maria Latella, ma voglio dire, non è che noi non abbiamo il nostro cuoco, non è che... Mamma mia, non mi chiami cuoco, per carità. Per carità, non mi chiami cuoco. Sono Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli, chef emozionale. Qualcuno mi chiama splendore, qualcuno mi chiama utopia, qualcuno mi chiama ultima speranza conosciuta. No, non mi serve la musica ancora. Che noia questa musica! Mamma mia, chi c'è in regia? Giorgio De Luca. Carmelo Lauricella. Uno peggio dell'altro. Giorgio De Luca, gli dirigo la macchina, gli dirigo la bicicletta. Non è un tecnico di regia. Persona sgradevole. Ma non so, De Luca, vado lì, gli sgonfio le gomme della bicicletta. Una persona sgradevole. L'ha già detto. Sono parlato di Lauricella. Come si chiama questo Carmelo Lauricella? Sì. Cosa mangerà? La pasta al ragù, mangerà la lasagna. Questi piatti da trattoria. Arriva Carmelo Lauricella, pasta al ragù per tutti. Bene, mamma mia, che disastro. Vabbè, che noto mangiatore di pasta al ragù, tra l'altro. Guardi, è un vero sconforto. Devo spiegare che il mio non è un ristorante, ma è una rigenerazione della propria essenza sopita. E allora, come fai a rigenerare la tua essenza se intanto stai allungando un rosé con dell'acqua minerale, stai intonando bevilo con il bicchiere in mano? Ecco, veramente sono cose date solo a Carmelo Lauricella. Allora, bene, sì. Al desco di Nietzsche non si viene per mangiare, si viene per lasciarsi avvolgere da una mistica terrena. Per esempio, se vuoi mangiare il nasello al vapore, vai alla pescheria dell'angolo. Noi invece prendiamo il nasello migliore, che deve essere un nasello all'insù, alla francese. Capita che il nasello... Ma cos'ha da ridere? Voi prendete il nasello alla francese. Risus abunda in ores tultorum. Ride, ecco. Perché non sa come si cucina. Il nasello a volte capita che sia così brutto che deturpa l'armonia del piatto. Allora noi preferiamo prendere un nasello rifatto all'insù piuttosto che un nasello naturale. Se è rifatto bene non te ne accorgi nemmeno. Siccome so che non c'è molto tempo, vado subito alla ricetta che oggi vi voglio regalare, la creazione. Allora, il titolo è Senza perdere la tenerezza. Ingredienti: un petalo di patata, una lacrima di olio e il nucleo dell'atomo di un grano di sale. Allora, ma come il nucleo dell'atomo? Scusi, non mi interrompa! Peggio di Lauricella, che persona spiacevole. Allora, prendiamo il petalo di patata, che è simbolo di dolcezza, ma armonia, ma anche la saggezza della maturità. Con un gesto vigoroso lanciamo il petalo di patata dentro l'olio bollente che rappresenta l'irruenza della giovinezza e voilà! Qualcuno penserà di aver fatto una patata fritta. Sbagliato. È una creazione narrativa che allude a un incontro transgenerazionale. La maturità della patata che inizialmente soccomba alla giovinezza dell'olio, ma invece ne viene contaminata ritrovandosi in una nuova dimensione, cioè la dimensione del fritto. Ciao a tutti da Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli tutto e da mia moglie. Tutto questo per un costo più o meno Ma facciamo 270.000 euro questa ma volta. Ma come 270.000 essere... Ci saluti sua moglie, come si chiama? Maria Assunta Bernarda Benedetta Intingolo Paciulli. Secondo me Bernarda non si chiamava prima. C'è anche adesso Bernarda. Vuole sapere lei come mi chiama, come si chiama mia moglie. Mamma mia, che arrogante, so. Presunzione ingiustificata. Vabbè, comunque sono partite veramente la giornata, il mattino dei lunghi coltelli. Carmelo Lauricella fa capire che era colpa di Lorenzo Nespoli prima. Adesso è veramente una redazione allo sbando e allo sfascio. Ma guardi, quindi, uno che si chiama Nespoli di cognome dovrebbe occuparsi di altro e non di radio. Ecco, questo la dice lunga. Nespoli. Federico Taddia, facci giocare anche per il weekend di Pasqua, va. Federico, buongiorno. Due idee, allora un classico, lo so che è una Pasqua dove non potremo uscire di casa, ma non si può rinunciare a quella che è una tradizione, soprattutto per i più piccolini, che è quella della caccia all'uovo, che è facile da fare se c'è in giardino, in un parco, a farla in casa è un po' più complicata. La caccia all'uovo non è altro che una piccola caccia al tesoro, dove o in un indizio, solitamente si trova un piccolo uovo decorato, oppure l'indizio finale è il classico uovo di Pasqua. Suggerisco di, visto che le case spesso sono piccoline, però ci si può veramente sbizzarrire a nascondere piccoli indizi qua e là. Con i bambini più piccoli piacciono molto i giochi di parole, piacciono molto gli indovinelli, con quelli più grandi ovviamente il gioco prende una piega un po' diversa. Io suggerisco di fotografare gli indizi sì, e giocare con i filtri di Instagram, di Snapchat, perché questi indizi, quindi dove hai nascosto il tuo uovo o il tuo bigliettino per la tappa successiva, li puoi veramente camuffare in maniera fumettosa, mettendoci un po' di simboli strani, insomma, può diventare divertente anche preparare gli indizi. Quindi caccia all'uovo, tradizione pasquale o da Pasquetta, insomma, tentate di farlo. C'è ancora un minuto, ci salutiamo. Sì, la seconda cosa, invece, siccome, insomma, parlando, lo sapete meglio di me, con i vostri figli, dicono che il tempo sembra non passare mai, ormai in questo tempo sospeso è il momento di costruire una clessidra, perché la clessidra ti permette di fermare il tempo. È semplicissimo, due bottigliette di plastica vuote, un cartoncino, col cartoncino fate un anello che sia grande come l'imboccatura della bottiglia di plastica e fate un forellino dentro l'anello. Attaccate l'anello su una bottiglia, riempite l'altra bottiglia con... non possiamo avere la sabbia in casa, ma va bene farina, va bene riso, va bene couscous, basta che sia abbastanza grandicello il buco per far passare i singoli granelli, rovesciate le due bottiglie una sull'altra, attaccate con lo scotch, avete la vostra clessidra, cronometrate un giro di clessidra quanto dura e avete la vostra unità di tempo. Stupendo. Da poter utilizzare. E pensate poi Leonardo Manera che passa tutta la Pasqua a guardare questa clessidra con la farina che è perfetta, prima di andare a accarezzare la bajour, è perfetta questa cosa. L'altro giorno ho provato a fare il gioco che suggeriva Federico di buttare la pallina dentro i bicchieri vuoti da solo. Alla fine ho chiamato il pronto soccorso psichiatrico. Comunque, nel ringraziare Federico Taddia per tutti questi giochi, devo dire una cosa: arriva un messaggio finale di Rosita. Vorrei finire il mio isolamento con Manera anche a 1,80 m di distanza. Mi basta ascoltarlo e che mi guardi come guarda il frigo o la abajur. Lo amo. Così, Rosita. Dichiarazione, non so se grazie, sia Rosita Celentano, non credo. Ti amo anch'io, Rosita. Passate una Pasqua così separata guardando ognuno la rispettiva abajur e il frigo. Va bene, Leonardo, lunedì non siamo in onda in diretta, c'è un meglio di, quindi ci ritroveremo martedì in diretta, quindi devi fare un urlo tuo solito consueto alla vita, al quartiere, al mondo, che valga per qualche giorno. Passerà anche questa Pasqua da soli ed arriverà la felicità! Uno, nessuno, 100.000.